La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. È una settimana, come dire, ibrida, però sicuramente incoraggiante in qualche modo, oppure di speranza, vedete voi, forse incoraggiante, ci aspettavamo un po' di più, ma l'importante era ripartire. Il 15 giugno i cinema sono ripartiti. Pochissimi nell'arco delle sale. In questo weekend qualcos'altro si muoverà, sicuramente il bacino comincia a ingrandirsi, per esempio a Milano riapre l'Anteo, però ecco, qualcuno ha cominciato a riandare al cinema, e questa è la notizia che ci aspettavamo. Lunedì, pian pianino, un migliaio di persone, di temerari, si sono affollati, si fa per dire, e non troppo sovrapposti peraltro, nelle sale, nelle 100 sale in tutta Italia che hanno avuto l'ardire di alzare la Sala Cinesca e di accendere le insegne. Pian pianino nella settimana si è andati avanti, con delle classifiche tra l'altro anche abbastanza bizzarre, perché dipendevano molto da che film faceva magari un solo cinema che aveva 150 spettatori e balzava al secondo posto in classifica. Però era interessante vedere come andava l'esperimento, ed è interessante parlare insieme di quello che c'è in sala comunque in questo momento, perché come dicevo questo weekend potrebbe essere un pochino più significativo. Non ci sono novità, non ne stanno ancora arrivando di novità in sala sul grande schermo, ce ne sono annunciate. Questa settimana per esempio si è parlato del fatto che il 2 luglio uscirà Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, il 22 luglio è già certa la data di un film importantissimo che è Onward, Disney Pixar, sui grandi schermi. Però insomma le sale hanno ricominciato da dove si erano fermate, quindi hanno ripreso in mano quei film che erano stati schiacciati dal Covid e che poi avevano avuto magari una piccola vita solamente in streaming. E allora noi siamo già in collegamento con Boris Sollazzo, vogliamo ricominciare così? Ciao Boris! Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ripartiamo da quello che si può vedere. La classifica negli ultimi giorni metteva nelle prime 10 posizioni l'eterno Parasite, per esempio, che pur essendo già uscito in un video continua comunque a calamitare l'attenzione degli spettatori, e secondo me lo farà molto anche nelle arene estive, che stanno andando ancora più forte dei film, eh? Cioè le arene estive stanno facendo cose importanti in questi primi giorni. Troviamo Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, troviamo ben piazzato per esempio anche Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo, uscito appunto in streaming ma adesso finalmente a disposizione sul grande schermo. Ascoltiamo questa clip. Secondo te me l'hai già attaccato? Boh, non lo so se sono capace. Dai, non fai il tirchio, attacca. E attaccalo. Bello quando sorridi. Se ridi ti esce il morbillo dalla bocca e me lo prendo io. Se no ti devo baciare. Ci baciamo in bocca così finiamo subito e posso tornare a casa con mia madre. Te che preferisci? A me va bene anche se stai qua con me e basta. Mi fa sta bene. Un momento di questo bellissimo film italiano, forse il più bello di questa sfortunata stagione fino a questo momento, Favolacce dei Gemelli d'Innocenzo. Boris, un film su un'infanzia violentata proprio nello spirito, messa all'angolo da genitori inadeguati, ed è un film che ha la capacità di costruire una tensione davvero unica nel suo genere. Eh sì, è un film sull'innocenza violata. Loro sono bambini che non perdono minimamente la loro carica di purezza, pur essendo dei piccoli adulti in mano a dei genitori immaturi, a dei genitori bambini anche cattivi. Fa piacere vedere, anche se i numeri, come dici, sono quelli che sono, che forse il Covid ha portato perlomeno lo zoccolo duro degli spettatori a perdere anche la voglia estrema di anteprime, privilegiando i film più belli che magari hanno già visto o che sono stati già visti. Questo mi sembra un bel segnale, soprattutto per i Fratelli d'Innocenzo, che era davvero un delitto non vederli in sala, insomma, senza nulla togliere alle piattaforme, un film come quello deve essere visto in sala. E lo aspettiamo chiaramente appunto anche durante le arene estive. Dicevamo, tra i film che si sono comportati bene, anche alcuni campioni d'incasso della parte autunnale, per esempio Cena con delitto, che è ripartito molto bene, e un film come Bad Boys for Life, che forse era passato un po' sottotono, commedia poliziesca, diciamo così, adesso invece si è un po' ripreso. Però il film che è stato praticamente in testa tutti i giorni di questa piccola e strana settimana è stato I Miserabili. Tu arrivi ora, ma noi siamo qui da 10 anni. Siamo gli unici che rispettano. Eccoli, sono loro, dai! Di che rispetto parli? La gente di qui ha paura di voi. Che succede? T'hanno rubato un leone? Sì. Impegnati, dobbiamo trovare il leone. Indietro! Indietro! Fermati! Fermo! Non eviterete la collera della gente. Boris, un minuto per raccontare, di nuovo, perché ne avevamo parlato al momento dell'uscita in streaming, perché I Miserabili è un film imperdibile. Beh, è l'odio del 2020, se vogliamo dirlo in 10 secondi, ha la stessa potenza espressiva e contenutistica del film di Matteo Kassovitz, che cambiò la vita di molti cinefili, anche di un paio di generazioni e delle periferie che finalmente venivano rappresentate. La cosa interessante è che qui la messa in scena è molto moderna. C'è un debito non scritto anche con i modelli dell'odio e con l'odio stesso, ma anche qui c'è un rovesciamento, perché il ruolo dei bambini è un ruolo in cui appunto la purezza si fa attiva, si fa reazione, si fa rivoluzione, e forse proprio attraverso quei personaggi di bambini che diventano quasi vigilantes del loro quartiere che c'è il salto di qualità dei Miserabili, che è davvero una delle opere che secondo me ricorderemo come dei cult politici oltre che cinematografici. Quando dico politici lo dico nel senso più alto del termine. E ricordiamo in sala anche Che fare quando il mondo è in fiamme, bellissimo doc, oppure Cattive acque, film di Impegno Civile, Alice il sindaco, insomma, ecco, dovete un po' cercarli per rifare amicizia con la sala, per ritornare ad avere fiducia nel luogo dove tutti noi stiamo meglio al mondo, probabilmente, che è il cinema. Però le cose continuano anche in streaming, continuano ad arrivare novità. Fra poco cominciamo a parlare sempre con Boris Sollazzo, a partire da un nome molto importante, quello di Olivier Assayas, con il suo Wasp Network, che arriva su Netflix fra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Per tornare a lavorare da professionisti dovremo abituarci a restare distanti, in cantiere, tra gli scaffali, tra colleghi e con i clienti. Ma con Fiat Professional anche il distanziamento peserà meno, perché essere distante sarà il pagamento del tuo nuovo veicolo. Riparti adesso e inizi a pagare a gennaio 2021. Gamma Fiat Professional con anticipo zero e primo canone nel 2021 da 144 euro al mese. TAN 1,99, tasso leasing 2,04. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 30 giugno. Info su fiatprofessional.it. La rosa purpurea. Lei è Olga Salanueva, moglie di René Gonzales? Non mi dica che gli è successo qualcosa. Siamo del Ministero degli Interni. Ma cosa è stato? Un incidente? È ancora vivo? È vivo e non è ferito. Compagna Salanueva, suo marito è in Florida. Sì, ha tradito. Ha rubato un aereo, ha volato sotto la linea dei radar ed è atterrato in una base militare a Miami. E quella che avete sentito è la clip di Wasp Network, il film di Olivier Assayas, arrivato proprio in questi giorni, in queste ore quasi, sulla piattaforma di Netflix. Un film del 2019 presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che adesso appunto arriva disponibile sul circuito, sulla piattaforma della N Rossa. Un film di spionaggio politico da parte di Olivier Assayas, forse non è la cosa che ti aspetti di più da questo regista, però che porta in luce un momento storico basato su un libro che si intitola Os Últimos Soldados da Guerra Fría. Racconta la vicenda storica realmente accaduta di cinque membri di una unità speciale, appunto in inglese la Wasp Network, di spionaggio che il governo cubano aveva infiltrato nella Miami degli anni 90 con l'obiettivo di appunto infiltrarsi nelle organizzazioni terroristiche anticastriste che da Miami portavano l'assalto al comunismo e al regime di Castro a Cuba. E la cosa interessante è proprio la duplicità di questi personaggi che passano da Cuba, se ne vanno verso Miami con l'onta, anche per i loro familiari stessi, di essere di fatto degli eversivi o comunque dei traditori della patria cubana. E in realtà sono invece spie che vanno di là proprio per essere credibili agli occhi degli anticastristi. C'è un triplo gioco che Olivier Assayas racconta. Boris racconta in maniera piuttosto semplice, con una regia, devo dire, non particolarmente forse intricata, senza mischiare molto i piani, perché già di per sé stesso comprendere il momento in cui si trova ognuno dei personaggi non è proprio sempre immediato. Ricordiamo nel cast, tra l'altro, nomi importanti. Edgar Ramirez è il protagonista principale, ma insieme a lui ci sono Ana de Armas, ci sono Gael García Bernal e Penélope Cruz. che esistono due Assayas, l'autore purissimo, spesso criptico, che racconta personaggi femminili, eterei e anche molto complessi, e poi c'è l'Assayas più muscolare, no? Quello di Carlos, quello di Wasp Network, non a caso in entrambi c'è Edgar Ramirez, che potremmo definirlo come attore feticcio in questa seconda parte di carriera parallela di Assayas. E lì invece c'è una regia più muscolare, come dici tu, più lineare, anche più facile. Quello che però riesce a fare Assayas è trasferire lo sperimentalismo visivo nella sceneggiatura, cioè è la sceneggiatura qui ad essere complessa. La capacità di Assayas in Wasp Network non è tanto quella di una regia straordinaria o di una direzione di attori particolare. Sì, c'è un Ramirez veramente di altissimo profilo, Bongal, Garcia Bernal, per il resto non c'è nulla di sconvolgente. È proprio nel raccontare quella complessità, la The Departed, di un triplo gioco di chi è dilaniato anche all'interno dalla vita che sta facendo, perché chiaramente Miami, le collaborazioni con l'FBI non sono cose da patriota cubano, c'è un'ambiguità anche di fondo nell'etica e nel portare avanti determinati comportamenti rispetto allo spirito rivoluzionario, e c'è anche appunto l'ambiguità di un regime che non si fa nessun problema a devastare le vite di questi eroi, che sono eroi proletari peraltro, non sono le spie borghesi a cui siamo abituati, non sono le spie raffinate, ex attori magari, è gente che viene dal basso e che ha deciso per un ideale di rovinare la vita a sé e ai propri familiari. Assayas ha un occhio molto deciso su questa storia, si capisce che cosa pensa, ma non si fa mai influenzare nel racconto dalla sua tesi, anche dalle sue simpatie, quindi riesce con grande rigore ad arrivare fino alla fine e a darci uno spaccato, una fotografia della rivoluzione cubana che non è solo quel Castro che esce fuori dalle immagini di repertorio, ma è anche quella lotta fratricida a Miami dei movimenti anticastristi e appunto delle spie invece pro Castro. E quindi devo dire complimenti da Assayas, perché riesce a tradire se stesso rimanendo fedele a se stesso però nella scrittura. E questo era Wasp Network su Netflix, proprio da poche ore, disponibile sulla piattaforma della N Rossa. A questo punto noi giochiamo insieme, prima di passare all'altra novità in streaming di questa settimana, grande novità, che è Artemis Fowl della Disney. Però giochiamo insieme, perché abbiamo come sempre il nostro film misterioso da farvi indovinare. Ascoltiamo la prima traccia. Ultima nave per Dawson in partenza, poi resta solo la slitta fino a primavera. Quella è mia. Ehi, grazie. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, ci sono delle tracce, si parla di navi, eccetera, eccetera. Insomma, se avete indovinato già di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it con appunto il titolo e il vostro indirizzo, perché dobbiamo premiare i primi due nostri ascoltatori che indovineranno il film con lo stesso film di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. E andiamo avanti con le novità, dicevamo, novità in streaming, ne arriva una grossa, l'avete forse vista prima di vederla su Disney Plus, perché non so, penso in maggiori città italiane, ma a Milano sicuramente sì, gli autobus sono tappezzati letteralmente dagli occhi e dagli occhiali di questo personaggio, Artemis Fowl, personaggio nato all'inizio degli anni 2000 con una serie di libri, una saga editoriale che poi era stata messa sotto diritti cinematografici innanzitutto dalla Miramax nel 2001. Pensate che lunga gestazione abbia avuto questo film, è passato attraverso diverse mani, sembrava a un certo punto finalmente la Disney aveva annunciato nel clan di produzione e di sceneggiatura, soprattutto doveva esserci anche Robert De Niro, e poi il tempo è passato ancora, finalmente adesso ci siamo arrivati. Pensate che il regista Kenneth Branagh è stato assunto nel 2015, il film arriva nel 2020. Insomma, è un film che ha avuto una lavorazione molto molto lunga, a volte questo è anche sinonimo di qualche incertezza su quello che bisogna fare. Comunque, proviamo a raccontare la storia di Artemis Fowl partendo da questa clip. Pronto? La tua famiglia ti ha sottratto una cosa di grande valore. Artemis! Restituiscimela o distruggerò tutto quello che ami. Non dovevi saperlo adesso. Tuo padre ha una professione complicata. Da anni custodisce potenti segreti che proteggono l'umanità da pericoli provenienti da un altro mondo. Devi affrontare il tuo destino. E allora, all'inizio siamo sulla costa d'Irlanda, un furto è stato perpetrato nell'abitazione di un ricco uomo d'affari, Artemis Fowl. È sparita una collezione di cimeli di fama mondiale, insomma. E tre giorni prima, il film torna indietro di tre giorni, il ragazzino, il figlio del proprietario di questa collezione, che si chiama a sua volta Artemis Fowl, è un ragazzino di 12 anni, capisce che l'unica speranza di rivedere un padre con il quale ha avuto sempre un rapporto difficile, perché era un padre sempre perennemente in giro, lo amava ma non c'era fisicamente, capisce che andarselo a prendere, andarlo a ritrovare. Per andarlo a ritrovare, questo bambino di 12 anni, questo ragazzino che ha delle doti intellettive straordinarie, è un genio vero e proprio, dovrà però entrare, diciamo, in contatto con mondi alternativi e con tanti pericoli che si frappongono fra la sua strada e il ritrovamento del padre. Boris, mi sembra che la Disney abbia puntato da tanto tempo a questo titolo, a questa saga, come una sorta di anti Harry Potter, no? Chiaramente la sfida è molto ambiziosa, ma Disney ci ha sempre fatto capire che quando vuole affrontare una sfida lo fa seriamente. Qui non ha badato a spese per quanto riguarda il budget, questo è un film da 150 milioni di dollari, non ha badato a spese neanche forse nel cast, dove annoveriamo Judi Dench, Josh Gad, Colin Farrell, con Ferdia Shaw, che è invece il giovane Artemis Fowl, ed è un ragazzino che sicuramente farà strada. Mi sembra che però alla fine manchi qualcosa. Cioè, la sensazione vedendo questo film, Boris, è stata di un esperimento un po' zoppo. Addirittura ho avuto la sensazione che 1:35 fosse troppo poco per condensare i primi due libri della saga, e che in fondo il film non decolli mai seriamente con un pathos che prenda lo spettatore e lo porti veramente a contatto, a interagire in maniera empatica con il film. Onestamente manca quasi tutto, secondo me. C'è un problema enorme, secondo me, in questo film, che è rappresentato dal fatto che sarebbe anche una pessima prima puntata di una serie TV su Artemis Fowl, figuriamoci se può essere la prima pietra di un franchise che vorrebbe, appunto, anche nel look del personaggio, contrastare Harry Potter. Io credo che nel film si veda chiaramente l'esperimento industriale e produttivo che la Disney ha tentato, cioè uscire dal live action, dal Disney Universe, e trovare la miniera in franchise che aveva trovato la Warner con Harry Potter. Certe cose però vengono anche da sé. È vero che quello era un progetto, anche quello della Warner, ma venne costruito attraverso un investimento di mezzi che non erano solo finanziari come quello della Disney, ma che erano strutturali, narrativi, visivi. Non ci dimentichiamo mai che tra i registi di Harry Potter abbiamo trovato anche il futuro, allora premio Oscar, Alfonso Cuarón. E qui manca tutto, manca la caratterizzazione. Intanto è quasi impossibile appassionarsi al film se non si sono letti i libri. Questo perché? Perché la caratterizzazione dei personaggi è una caratterizzazione definita fin dal primo minuto. Si autoaffermano le loro qualità, cioè a un certo punto il protagonista si definisce un genio del crimine e noi non abbiamo visto niente che giustifichi questa definizione, non sappiamo perché, se non perché ce lo dice lui, e lo fanno tutti, e alla fine quell'ora e mezza, come dici tu, sembra brevissima da una parte, ma anche lunghissima, perché non capisci che cosa hai visto, non riesci a sentire quello che dovresti provare, no? Questo romanzo di formazione, questo nuovo eroe che dovrebbe occupare il tuo immaginario. Purtroppo è quello che succede quando a tavolino decidi di creare un universo, che quell'universo possa collassarti addosso. Peraltro poi, con la sfortuna del Covid, arriva solo su streaming, ma credo che per la qualità del film sia stata una fortuna per la Disney, perché si è risparmiato un bagno di sangue al batterino. E allora, Boris, Artemis Fowl era la seconda proposta nuova in streaming di questa settimana. Noi ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema, finalmente. E allora, siamo a questo punto a dare la linea alla regia. Fra poco è con noi Gianni Di Gregorio, che ci racconta il suo Lontano Lontano, che arriva su Rai Play. Fra poco. La rosa purpurea. Ditemi un bene di consumo a caso. La birretta, professor. Birra piccola, 33 centilitri. Molto bene. 1,03 euro a soffia 6 euro a Ginevra. Fa presto il professore, dice, la biletta costa meno in Bulgaria, va in Bulgaria. Ma a me che me frega di andare in Bulgaria, oh. Ha detto pure altre cose però, ha detto Cuba. Sì, ma Cuba pure bisogna sposarsi, è pure a Bali, mica so cazzi. Bali. Comunque, il posto più vicino sarebbe meglio, perché così poi se cambiamo idea potremo ritornare indietro. Ma come cambiamo idea? Oh, se cominciamo così allora fermiamoci subito, eh. Ognuno se ne sta a casa sua e che va meglio così. Tre amici, una birretta e il sogno di andare via lontano lontano. È il nuovo film di Gianni Di Gregorio che arriva su Rai Play dopo essere passato dal Festival di Torino. Arriva appunto su Rai Play gratuitamente in mezzo a questa pattuglia di 8 film italiani che appunto Rai Play ha messo a disposizione del pubblico. Gianni Di Gregorio, che oltre regista è anche il protagonista, insieme a Giorgio Colangeli e a Ennio Fantastichini qui all'ultima sua interpretazione prima di lasciarci in maniera prematura. Ed è con noi in collegamento proprio Gianni Di Gregorio, regista e attore in questo suo film. Ciao Gianni, ben trovato alla Rosa Purpurea. Ciao, ciao Franco, grazie tante, grazie, eccomi qua. Grazie a te, grazie a te per essere qui con noi, grazie a te per il film, perché ne avevamo già avuto modo di parlare a Torino, lontano lontano è veramente una piccola delizia, una piccola chicca. La storia, lo ricordiamo, di tre pensionati che cercano una vita un po' più agiata, un po' meno, come dire, tormentata, tribolata dai problemi, le bollette, i soldi che non arrivano, la pensione che non basta per arrivare a fine mese. Allora cercano in maniera anche un po' pasticciona, se vogliamo, di arrivare a cercare una meta che poi in fondo non c'è, perché in fondo la meta è sempre quella del nostro cuore ed è quella in cui rimaniamo. Ecco, raccontaci un po' questo film, finalmente adesso la gente lo può vedere su Rai Play e poi speriamo anche sui grandi schermi. Raccontaci un po', Gianni, com'è nata questa storia, come hai scelto questo argomento per questo tuo nuovo film. Sì, Franco, allora in realtà mi ha telefonato Matteo Garrone un giorno e mi ha detto: tu sei specializzato in vecchietti, vecchiette, pensionati, terza età, quarta età, e devi fare assolutamente un film su un pensionato povero che ha una pensione piccola, italiano, che pensa di andare fuori, è costretto in qualche modo a organizzare una sua vita all'estero. E questa cosa mi ha colpito, mi ha folgorato, e io penso, Franco, per un anno sono andato ai giardinetti delle ville pubbliche per la strada e ho parlato con centinaia di pensionati, ed era per 2 anni, 3 anni, è stata proprio l'ossessione di tutti i pensionati italiani, e uno su due volevano andare all'estero, e soprattutto in Portogallo, quindi era proprio un fenomeno rilevante proprio. Quindi ho fatto un anno di materiali e poi 6 mesi di scrittura, quindi è stato un lavoro molto molto molto intenso. La cosa bella, mi fai pensare sulla questione della scrittura, è che nei film di Gianni Di Gregorio, ricorderete Pranzo di Ferragosto, tanto per citare forse quello più celebre, la scrittura c'è ma si sente poco, cioè nel senso che la sensazione che hai davanti a un film di Gianni Di Gregorio è quella di trovarsi di fronte a qualcosa che sta accadendo in quel momento. Ecco, come hai lavorato anche in questo caso, anche con il registro diverso dei tre attori, il tuo molto naturale, Giorgio Colangeli, e poi Ennio Fantastichini, invece sempre molto fisico, molto energico. Come hai trovato, hai lavorato a questo aspetto del tuo cinema e di questo film, cioè a trovare questa naturalezza del racconto? Ma guarda, questa è stata una cosa meravigliosa, perché quando io dopo la scrittura ho visto, e io li conoscevo entrambi, Giorgio Colangeli e Ennio Fantastichini, li amavo molto, ma non li conoscevo personalmente, e quindi a un certo momento ho chiesto al produttore, dico: sai, prima di fare le riprese dobbiamo vederci una volta, andare a mangiare insieme, dobbiamo parlare del film, no, così immediatamente. E quindi ci hanno organizzato per andare a mangiare in una trattoria. Franco, non abbiamo detto una parola del film, sembrava che ci conoscessimo da 30 anni, e ci siamo completamente ubriacati, ci sono dovuti venire a prendere perché non eravamo in grado di tornare sul posto, e lì ho capito che il film stava partendo, perché avevo davanti due personalità, due attori mostruosi, devo dire, veramente, che mi hanno travolto e hanno portato moltissimo nella sceneggiatura. Proprio ci sono delle battute addirittura inventate, magari loro mi dicevano un attimo prima: ma la diciamo questa? Dico: ma dilla, è migliore di quello che c'è scritto. C'è stato stato un apporto affettivo, devo dire, che mi ha travolto. Quindi io, quando ho trovato loro, ho capito che il film sarebbe partito con una marcia veloce, non ero in una macchinetta, in un'utilitaria, ma ero dentro una Ferrari, un Alfa Romeo, insomma, per intenderci. Certo, ecco, hai toccato il tasto di Ennio. Nel film lo vediamo, Gianni, molto provato fisicamente, la battuta sempre pronta, il sorriso, però anche un po' di affanno. Che ricordo ti porti dietro di Ennio, di questa esperienza, di questa avventura, e che cosa hai letto nei suoi occhi durante la lavorazione di questo film? Perché lui probabilmente, come dire, sentiva comunque questa sofferenza sulla sua pelle. Guarda, in realtà sì, era affaticato, ma nessuno di noi sapeva il motivo, neanche lui probabilmente. Però c'era una tale carica, con tutta la sua, il suo affanno appunto, lui si travolgeva, era lui il comandante di tutto, devo dire. Io, è stato un incontro bellissimo, perché lui è stato un uomo straordinario, oltre che un grande artista, e aveva, nonostante le sue battute, la sua leggerezza, così, il suo essere spumeggiante, cioè aveva una tensione artistica e morale che io non ho mai visto, una cosa incredibile, quindi è stata una lezione. Poi c'è stato un momento del dolore, perché lui non l'ha mai visto il film, e quindi è stata una cosa di dolore. Però io ho incontrato suo figlio Lorenzo, che mi ha abbracciato commosso e mi ha detto: è stato un grande regalo rivedere mio padre così. Poi, e quindi questo mi ha allenito un po' il dolore, mi ha dato un pochino di sollievo da questo dolore. Allora, sta casa l'hanno fatta proprio con le mani loro mio padre e mio fratello, sì. Quello che sta a Santo Domingo. No, ma chi è Santo Domingo? Sta Terracina. C'è un'impresa di ristrutturazione di case, poi fanno ogni tanto qualche casa abusiva, sti lavoretti così. Ma Giorgio, ma chi è questo? C'entra un cazzo con Santo Domingo. Ci hai parlato per telefono? Mo io vado a dire del fratello per telefono, dai. E che gli ha detto? Gli ho detto che ci dovevamo parlare. E lui ti ha fatto venire fino a qua, senza sapere neanche quello che io dovevi dire. No, si vede che non c'è un cazzo da fare, ma che te devo dire? Come noi. Esiste un lontano di Gianni Di Gregorio? Cioè, tu ti staccheresti mai dalla tua amata Roma, che poi è set naturale dei tuoi film, per andare, che so, tanto per citare qualche meta del film, alle Azzorre piuttosto che a Cuba? O in fondo il luogo dell'anima alla fine è il nostro lontano, solo che dobbiamo essere capaci di raggiungerlo? Beh sì, è una bella domanda questa, Franco. No, devo dire che io sarei terrorizzato dall'idea di partire, infatti tutte le mie paure traspaiono nel film, no? E quindi tutti i dubbi assoluti. Io sono proprio un trasteverino vero, nel senso che sono nato qui. Questa cosa che è stata anche un grande privilegio, devo dire, perché ho visto tanta gente, però è stata anche il fatto che mi tiene sempre ancorato qui, non sono capace di muovermi, mi sento come un albero piantato qui in piazza, non credo che sarei capace di pensarlo un movimento. E poi, ecco, rispetto a quello che tu dici, forse c'è da scavare in più anche qui, anche in noi, e forse lontano, come hai detto giustamente, lo possiamo trovare qui, ecco. E allora, lontano, nel frattempo, per il momento, è su Rai Play, a disposizione di tutti. Gianni Di Gregorio, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo, insomma, per l'avventura, per il momento, sui piccoli schermi e poi chissà anche su quelli grandi del tuo film. Sì, ti ringrazio tanto, Franco. Gianni Di Gregorio quindi ci ha raccontato lontano. Noi giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Ho perso il mio cane di testa. Tarderemo 2 giorni se siamo fortunati. E non lo siamo mai. Sarà meglio che ti tieni forte. Sì, come no. Si parla di cani, si parla di slitte, prima si parlava di navi, insomma l'ambiente è abbastanza chiaro. Se avete indovinato di che film si tratta, titolo e vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché ci sono 2 Blu-ray che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo. Adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme e parliamo di Alberto Sordi, a 100 anni dalla nascita, con Italo Moscati. Hai scoperto che per andare a lavorare non serve andare in ufficio. Per fare un meeting con i fornitori non serve una sala riunioni. E che per incontrare i clienti basta essere connessi in sicurezza. Perché con Vodafone Business hai anche Microsoft 365 e il tuo posto di lavoro è ovunque tu sia. Il tuo lavoro digitale, la nostra soluzione per renderlo sicuro e sempre connesso. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vieni su voda.it/lavoro digitale. Ready? La rosa purpurea. Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. Amava anche molto cantare Alberto Sordi, che nasceva 100 anni fa. Il 15 giugno di quest'anno si è celebrato il 100° anniversario della nascita di Alberto Sordi, celebrato davvero anche nonostante il momento difficile, con tante iniziative che sono state fatte o annunciate un po' in tutta Italia. Per esempio è stato annunciato a Roma che dal 16 settembre sarà aperta una grande mostra presso appunto la villa di Alberto Sordi, sono usciti tanti libri, uno di questi libri è stato curato da Italo Moscati, si intitola Alberto Sordi, una vita tutta da ridere, e Italo Moscati è qui con noi al telefono alla Rosa Purpurea. Ciao Italo. Ciao, grazie di avermi chiamato. Ma grazie a te di aver accettato il nostro invito. Allora, facciamo una cosa, io direi andiamo ad ascoltare prima tre clip che ci danno un po' il senso. Chiaramente avremmo potuto trasmetterne 200, ma insomma abbiamo voluto scegliere queste un po' alternative rispetto ai soliti momenti top e cult di Alberto Sordi. La prima è tratta da Cadde al penitenziario del 55, la seconda da In viaggio con papà con Carlo Verdone nell'82 e la terza da Finché c'è guerra c'è speranza. Sentiamo. Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo, senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino. Ed è uscito quando è finita la guerra? No, quando è finito il vino. Ah. Scusa, ma che tipo è questo ingegnere? Perché? E lui ti dice ciao amore, tu gli rispondi ciao. Senti, amore bello cristiano di papà. Ma che cazzo te frega a te? Le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi. Le famiglie come la vostra che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce, tutti i cazzi che ve se fregano! Italo, quest'ultima clip soprattutto è di una modernità e di un'attualità incredibile. Allora, a proposito di attualità, ecco, cosa ci dice Alberto Sordi? Cosa dice a noi italiani? Lui che è stato la maschera dell'Italia e degli italiani per 50 anni. Cosa dice all'italiano di oggi? Guarda, dice tante cose che dobbiamo analizzare, perché ad Alberto Sordi, ma anche a Federico Fellini, abbiamo dato atto di essere stati dei personaggi fondamentali nel Novecento e anche nella parte del secolo per cui sono vissuti. Lui aveva il gusto di parlare, ma nello stesso tempo il gusto anche di giudicare, aveva un grandissimo concetto di se stesso. E siccome se l'è fatta da sola la fortuna, perché è stato bravo a entrare nelle maglie della nostra società e soprattutto dei suoi mezzi della televisione e del cinema, quindi lui ha praticamente monopolizzato il mondo comico venuto dopo ai grandi Totò e ai grandi personaggi della nostra tradizione comica. Quindi mi è piaciuto scoprirlo anche nelle sue intimità, e cioè il fatto per esempio che aveva preso di suggestione il nome che gli avevano dato i genitori da un fratellino che era morto, e lui ha dedicato a questo personaggio una canzone, che è una canzone che è anche spassosissima, perché lui lo fa in qualche modo risuscitare e lo vede nel tempo, a 30 anni praticamente, quando Sordi cantava questa canzone, e quindi aveva anche lui, come Fellini, delle visioni, degli elementi che l'hanno sostenuto. Allora ascoltiamo la voce di Alberto Sordi, perché dagli archivi della Rosa Purpura abbiamo recuperato una vecchia intervista che gli feci tanti anni fa, ma nella quale c'erano un paio di passaggi che hanno ancora un senso, cioè farci raccontare dalla voce di Alberto Sordi cos'era per lui il cinema. Il cinema è una vocazione, io l'ho fatto per 60 anni con una vocazione, da quando sono nato ho pensato di fare il cinema e basta. Ed è la vita, la mia vita, il pubblico è la mia famiglia, è tutto. Io ho lavorato solo per il cinema, ho fatto di tutto prima di fare il cinema. Quando il cinema mi ha chiamato, mi ha reclutato in esclusiva, e io ho fatto soltanto cinema. Non sono più tornato a teatro, niente, ecco. Questo è tutto, è la vita. Io non ho accettato dei film che mi proponevano. Io andavo al passo con l'evoluzione del costume. Se non era di attualità non facevo il film. Le idee nascevano sulle idee del momento in cui io potevo girare il film. Ecco. Quello che succedeva in Italia io l'ho rappresentato. I personaggi è stata una miriade di personaggi di tutte le estrazioni sociali, di tutti i ceti, di tutte le categorie. Belli, brutti, poveri, ricchi, tutti l'ho fatti. Ecco, Italo, hai sentito la voce di Alberto Sordi, fa sempre una certa impressione sentirlo e ascoltarlo. Però, ecco, questa simbiosi con il cinema. Dice, io quando ho incontrato il cinema poi non l'ho più mollato, non mi sono dedicato ad altro. Quasi una sorta di ossessione, no? Raccontarsi attraverso il cinema. Esatto, guarda, lì poi è capitato anche che l'elemento storico poi domina la situazione. Lui ha parlato del cinema, il cinema italiano comincia a vivere in maniera molto forte nel 1936, cioè all'apertura di Cinecittà. Il giovanissimo Alberto Sordi faceva gli spettacoli di rivista della Wanda Osiris, che era considerata una divina nella Milano del passato. E lui si è divertito moltissimo, ma ha detto una cosa giusta, si è attenuto un po' all'aria che tira, ma non l'aria che tira semplicemente nel conformismo, ma anche nel dispetto, nel mettere in mutande i politici, nel constatare lo sviluppo della corruzione della politica. Quella cosa che ha fatto, e me l'ha detta lui, io la copio, mi sono sempre informato delle cose cattive, perché le cose cattive rese magari con uno spunto o con una narrazione comica sono più divertenti. Il film, lui diceva sempre, deve scoppiare di comicità, cioè deve essere più forte la dose che gli attori portano. Non ci si può alludere, bisogna andare con grande forza al centro del problema. E lui l'ha fatto sempre. La finezza di Sordi, che io voglio sottolineare contrariamente a quello che succede, che lo portano semplicemente come italiano, lui non era un italiano, lui era soprattutto un personaggio che castigava i costumi, lui aveva una particolarità, era un Joker che giocava pesante. Allora, Italo Moscati, grazie per averci raccontato il tuo Alberto Sordi e a risentirci. Grazie a te, ciao. E allora noi vogliamo chiudere questa parentesi dedicata a Alberto Sordi ascoltando l'omaggio, il ricordo di uno dei più grandi, oltre ai registi italiani di tutti i tempi, ma anche dei più grandi, delle più grandi espressioni del nostro cinema, anche fra quelli che hanno lavorato con Alberto Sordi, ovvero Mario Monicelli. Ha fatto la storia del cinema italiano e non solo del cinema, del costume, del carattere degli italiani, che è stato un grande, forse il più grande attore del secolo scorso, e soprattutto che ha inventato lui un personaggio che è l'opposto di quelle che sono le regole del personaggio comico, cioè invece di essere come i Chaplin, come i Buster Keaton o Villaggio, eccetera, un perdente, sfigato nella vita, senza fortuna nell'amore, eccetera, al contrario, si è imposto un personaggio odioso, vile, prevaricatore, corruttore, feroce, corrotto, eccetera, e ciononostante si è imposto, ha fatto ridere gli italiani, è diventato popolarissimo e ha fatto conoscere gli italiani se stessi. Così Mario Monicelli parlava di Alberto Sordi. E allora l'omaggio al centenario appunto della nascita di Alberto Sordi, ma noi torniamo sull'attualità perché dobbiamo parlarvi dei film da vedere in casa partendo dal nostro game di 7 giorni fa. Di nuovo i nostri amici? Sembra di sì, l'altro è nemico. Chi vince? Noi, credo. 2-1. L'hanno preso. E allora, hanno vinto perché hanno risposto per primi individuando il nostro film misterioso 1917, Paola Signorelli di Bergamo ed Enrico Callegati di Reggio Emilia. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di 1917 che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Non c'è tempo per pensare, si tratta di portare un dispaccio che avverte un altro battaglione dell'esercito inglese che si trova a pochi chilometri di distanza di un imminente attacco dell'esercito tedesco che ha finto un ritiro oltre la linea Hindenburg ma che in realtà sta organizzando un'imboscata. L'obiettivo è salvare un intero battaglione di 1600 soldati da una morte certa. Basato su ricordi bellici del nonno, questo film di Sam Mendes, che si aspettava l'Oscar come miglior film, è un oggetto eccentrico, un unico respiro trattenuto lungo due piani sequenza, che ci immerge nella prima guerra mondiale ma che al contempo funziona per livelli e obiettivo finale, e ha l'estetica fredda di un videogame. Coraggioso, magistrale, inclassificabile ode antimilitarista, un Blu-ray che a livello tecnico è per ora il migliore dell'anno e che come extra rivela l'incredibile lavoro dietro questa magia cinematografica fuori norma. E questo era 1917. Giulio, il tempo stringe, però andiamo a dare una segnalazione, uno spunto dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Le verità nascoste, lunedì 22 giugno in prima serata alle 21.20 su Rai 3. Eccoli lì ancora. Accidenti, sono già due volte in... quando sono arrivati? Tre settimane. Sì, come si chiamano? Fewer, facoltà di psicologia, infatti sono pazzi. Harrison Ford e Michelle Pfeiffer sono felicemente sposati, abitano in una villa sul lago decisamente troppo isolata e mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Film girato da Zemeckis in una pausa della lavorazione del grandissimo Castaway, è un thriller micidiale puntuto che cambia continuamente le carte in tavola, che gira tra Bergman e Hitchcock e gioca con un assedio domestico in chiave horror animato da un gusto e da una sapienza che confermano Zemeckis, regista eclettico, in questo caso mago della serie B, perché questo film è puro gotico americano, conferma che Zemeckis conosce benissimo i fantasmi del suo grande paese. E allora Giulio, queste erano le verità nascoste su Rai 3 alle 21.20, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre l'epilogo tocca allo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Il richiamo della foresta, il film con Harrison Ford, guarda caso, ancora una volta, ma sulle tracce del romanzo di Jack London. I vincitori la prossima settimana, quando ci ritroveremo qui alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.